Prima di cominciare non c'era niente al mondo, ora che ci sei tu per me c'è troppa gente, gente che vuol sapere perché viviamo così. Se cadesse il mondo quello stesso giorno